Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Oggi parliamo di moda. Voi direte, ma come? Sottotiro, storie di mafia ed antimafia, che cosa c'entra la moda? Ma non parleremo di questa moda che introduco così. Questa era la moda accompagnata dalla colonna sonora del film Sotto il vestito niente del 1985, film diretto da Carlo Vanzina. Ricorderete che raccontava il mondo della moda in un modo molto particolare, molto duro anche. Noi non parleremo di questa moda, ma a sorpresa di una moda che, come dire, combatte. È una seconda pelle, usiamo questo termine, una seconda pelle per chi combatte veramente con i fatti e non a parole la mafia. Parliamo di un imprenditore, di un cooperatore sociale che si chiama Vincenzo Linarello, che ha deciso di puntare tutto sulla legalità con una azienda di moda, con una brand che si chiama Cangiari. Cangiari in dialetto siciliano, in dialetto calabrese, vuol dire cambiare. Quindi già la linea Cangiari identifica la volontà di cambiamento. Allora, da dove viene questo imprenditore? Viene da Gioiosa Ionica. Allora, chi non fosse mai stato a Gioiosa Ionica deve sapere che è un paese, io ci ho fatto diverse inchieste, quindi lo conosco bene, è un paese in cui l'andrangheta la respiri proprio, cioè non si muove foglia in quel paese che le cosche non vogliano. Sono fra le peggiori cosche dell'andrangheta nazionale, ma con molte ramificazioni internazionali. Questo imprenditore, che ha questo marchio, che è il marchio Cangiari, che è di proprietà del consorzio Goel, un consorzio di imprese sociali, ha deciso di mettere radici dove? A Milano, capitale dell'andrangheta, che se ne dica. A Milano in viale Montesanto, a pochi metri dalla stazione. Siamo nel centro di Milano. Pensate che bello. Una boutique della moda nel centro di Milano, in cui la filiera, dalla prima all'ultima cosa che viene esposta, è una filiera di legalità. Buongiorno, dottor Linarello. Buongiorno a voi. Allora, come vi è venuta questa idea? Ce la racconti, che è splendida. Ma diciamo che il brand Cangiari nasce da due esigenze. Da un lato avevamo una cooperativa di donne in un paesino splendido come Gerace, che tessevano i tessuti al telaio artigianale, con dei tessuti pregiatissimi ma anche molto costosi, perché per fare un metro di quella stoffa ci vogliono 6 ore di lavoro, e tutto questo non riusciva a produrre un mercato locale. Allora ci siamo detti, facciamo diventare questi tessuti abiti di alta moda. Dall'altro lato ci piaceva l'idea che la moda fosse comunicazione solitamente destinata a valori effimeri o a disvalori addirittura, però ci siamo detti, il mezzo è buono, potrebbe comunicare l'esatto contrario, potrebbe essere dissimile come il simbolo che noi abbiamo scelto, e provare a far conoscere a una platea completamente diversa da quella a cui solito ci rivolgiamo nei nostri incontri in giro per l'Italia, dei valori di legalità, ma anche in qualche modo di appello a un impegno al cambiamento. Assolutamente sì, io trovo questa iniziativa splendida davvero, anche perché non soltanto noi stiamo tessendo, voi state tessendo una trama di qualità, quindi una trama tessile sociale, guardate quanti giochi di parole riesco ad inventarmi, ma addirittura esponete in Viale Montesanto 10 a Milano, lo ripeto, siamo nel cuore di Milano, Viale Montesanto 10, in beni confiscati all'andrangheta, quindi c'è un doppio godimento, lasciatemelo dire, non soltanto una filiera di qualità tessile che arriva a Milano da terre della Locride, ma addirittura poi che vengono esposte e vendute in una proprietà, in un immobile confiscato all'andrangheta. Allora, diciamo chiaro e tondo però, Linarello, che quello che voi vendete qui a Viale Montesanto 10 sono prodotti di qualità, spieghiamolo bene. Sì, diciamo che nello spazio Cangiari in Viale Montesanto 10 non ci saranno solo i prodotti di Cangiari, ma abbiamo voluto ospitare in questo nostro spazio anche prodotti di altre cooperative sociali, però che abbiano un livello qualitativo altissimo. Il messaggio qual è? L'economia sociale non è un'economia di nicchia, non è un'economia povera, riservata solo a chi fa scelte eccezionali, può essere una vera alternativa anche in questo momento di forte critica al sistema finanziario capitalistico senza scrupoli, quindi può essere qualcosa che coniuga il bene comune ma anche la qualità e la produttività. Assolutamente. Dall'altro lato c'è anche la considerazione molto bella che abbiamo voluto dare a questo bene confiscato, che in qualche modo l'Andrangheta cosa fa? Succhia il sangue ai calabresi onesti, alla maggioranza dei calabresi onesti, e la va a investire al nord. Abbiamo detto al sindaco di Milano, abbiamo detto all'assessore, proviamo a restituire un pezzo del maltolto ai calabresi e anche ai cittadini di Milano, facendo in modo che finalmente venga utilizzato per il buon nome dei calabresi. L'Andrangheta diffama i calabresi in giro per il mondo. Assolutamente. Noi tentiamo con Cangiari di portare l'eccellenza. Ottimo, io ringrazio l'imprenditore Linarello. Ricordo due indirizzi. Allora, il primo è quello goel.coop, in maniera tale che potete anche risalire a questo spazio Cangiari. Il secondo è la mail comunicazione@cangiari.it. Ma poi c'è l'appuntamento in Viale Montesanto 10, in cui acquistare abiti, diciamo, di questa filiera della legalità sarà veramente una cosa straordinaria. Vi ricordo la nostra mail, sottotiro@radio24.it, alla quale segnalare le storie di mafia e di resistenza alla mafia, e in più vi ricordo il mio blog Guardie o Ladri sull' home page del Sole 24 Ore. Grazie a Paolo Corleoni in regia e Laura Faggini in redazione, e una buona giornata a tutti. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo